tipo scade compari 2008. Un reggae stasa yen, con il fuoco che ti brucia dentro. Ultima fase, punto fisso. Sientimo, okay. E con il fuoco che ci brucia dentro senti voi. Quando la cosca sta al completo c'è il fomento, poi colpisce dritta nel tuo cuore, ma senza farti male. Il reggae scuoterà la terra per farti vibrare. Il reggae che mi dà la forza per cantare, l'hip hop mi carica per poi farmi scoppiare. Lo sai che è naturale quando qui c'è il guaglione. Qual è la situazione? Utiena l'Inde, sono convinto, quindi mo caccia la fora. Si tu siendo pure tu, musica ma si frada. I semana, si te piace, i semana. Se la situazione è buona, zompa pure tu, un coppa vibraziona. E con il fuoco che ci brucia dentro senti voi. Quando la cosca sta al completo c'è il fomento, poi colpisce dritta nel tuo cuore, ma senza farti male. Lei che scuoterà la terra per farti vibrare. Ti ricordi questo suono di 5 anni or sono? Ti ricordi questo suono come brucia? Sempre fieri di restare liberi in questo mondo che anche gli schiavi ha reso complici. Che se chi spende sky fai macchine da guerra. Noi attrighiamo il sound che fa tremare la terra. Se la cosca scende in campo non ci sta più scampo. Io mi sento rinascere giorno dopo giorno. Bentornati a tutti, siamo quelli di USA. È passato tanto tempo ma ancora mi faccio i fatti miei. Canto per la gente che abita nelle città. Questo è il suono di Rovigo e dalla campagna mi urlano bombo clap. Se senti sta vibrazione alza le mani ben in aria, tempo su questa versione. E adesso seguimi e ti spiego la ragione di perché nel mondo c'è chi vive troppo bene e c'è chi muore. È come il fuoco che brucia ma il reggae non ti fa male. Senti appena si diffonde il suono comincia a vibrare. È chi frat che cresce sta facendo e sin dove piace. Chi tu suona allora forse non ti degna, perché so se t'hanno ormai che faccia e mo con cosa sta cagnando. Sulle sempre ci dici da sta dancehall. Siamo unici e seguici su questa canzone. Gente, l'urec è la nostra ragione. Per i massicci, per i massicci, i fratelli e le sorelle, per la dancehall, il reggae, tutta la gente che ha un fuoco a intro. Questa è Cosca dei Compari, già sa. E adesso brucia queste anime di merda. E adesso brucia i produttori della guerra. Adesso brucia chi vende armi da battaglia. Adesso brucia questi infami e falli saltare per aria. Ti porto le serate nella yard coi compari. Se anche te odi la guerra accendi fuoco sta dancehall. Inizia a ballare e non fermarti mai. Mostrate a chi comanda che i potenti siete voi. E con il fuoco che ci brucia dentro senti voi. Quando la cosca sta al completo c'è il fomento, poi colpisce dritta nel tuo cuore, ma senza farti male. Lei che scuoterà la terra per farti